ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. Mentre mi precedeva sulle scale, Zilla mi raccomandò di nascondere la candela e di non fare rumore, perché il suo padrone aveva un'idea tutta sua sulla stanza in cui lei stava per sistemarmi e se fosse stato per lui non avrebbe mai permesso che qualcuno ci dormisse. Chiesi per quale ragione. Mi rispose che non lo sapeva. Viveva lì solo da un paio di anni e quella gente aveva tante di quelle stranezze che lei non aveva nemmeno il tempo di cominciare a fare la curiosa. Troppo intontito per essere curioso io stesso, chiusi bene la porta e mi guardai intorno in cerca del letto. Tutto l'arredamento consisteva in una sedia, un guardaroba e un grande armadio di quercia con aperture quadrate in alto simili a finestrini di carrozza. Avvicinatomi a questa struttura ci guardai dentro e mi accorsi che si trattava di un letto, di un genere molto strano e all'antica, concepito appositamente per ovviare alle necessità che ogni membro della famiglia disponesse di una camera propria. Infatti formava uno stanzino e il davanzale di una finestra, che si trovava lì dentro, serviva da tavolino. Feci scorrere i pannelli laterali, entrai con il mio lume, li richiusi e mi sentii al sicuro dalla sorveglianza di Heathcliff o di chiunque altro. Il davanzale, dove appoggiai la candela, aveva in un angolo una pila di libri ammuffiti ed era coperto da scritte graffiate nella vernice. Queste scritte, in realtà, non erano che un solo nome ripetuto in tanti caratteri, piccoli e grandi. Catherine Earnshaw, qua e là variato in Catherine Heathcliff e poi ancora Catherine Linton. Fiacco e privo di forze, appoggiai la testa contro la finestra e continuai a sillabare Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, finché mi si chiusero gli occhi. Ma non avevo riposato 5 minuti che un bagliore di lettere bianche, vivide come spettri, balenò dal buio. L'aria pululava di Catherine. E mentre mi riscuotevo per disperdere quel nome invadente, mi accorsi che lo stoppino della mia candela si era inclinato sopra uno degli antichi volumi e profumava l'ambiente con un odore di cuoio bruciato. Smoccolai la candela e in preda a un forte malessere a causa del freddo e di una persistente nausea mi tirai su a sedere e aprii sulle ginocchia il volume danneggiato. Era una Bibbia stampata in caratteri piccoli che emanava un tremendo odore di muffa. Sul frontespizio c'era una scritta: questo libro è di Catherine Earnshaw e una data risalente a un quarto di secolo prima. Lo richiusi e ne presi un altro e poi un altro ancora finché li ebbi esaminati tutti. La biblioteca di Catherine era ben scelta e il suo stato di deterioramento testimoniava che era stata usata intensamente, anche se non sempre a scopi legittimi. Quasi nessun capitolo era sfuggito a commenti scritti a penna, o perlomeno sembravano commenti, che coprivano ogni spazio bianco lasciato dal tipografo. Alcune erano frasi isolate, altre parti avevano la forma di un vero e proprio diario, scarabocchiato con una grafia incerta, infantile. E in cima a una pagina completamente bianca, un tesoro probabilmente quando venne scoperta, vidi con mio grande divertimento un'eccellente caricatura del mio amico Joseph, schizzato rozzamente ma con efficacia. In me si è acceso un immediato interesse per quella sconosciuta Catherine e cominciai quindi a decifrare i suoi sbiaditi geroglifici. «Una domenica orribile», cominciava il paragrafo seguente. «Vorrei che mio padre fosse ancora qui. Hindley è un sostituto detestabile, si comporta atrocemente con Heathcliff. Hindley viene giù di corsa dal suo paradiso sul focolare e, afferrando uno di noi per il colletto e l'altro per un braccio, ci scaraventa entrambi nel retrocucina, dove Joseph ci ha assicurati che il diavolo verrà a prenderci, come è vero che eravamo vivi. E con queste parole di conforto ci siamo cercati ognuno un cantuccio separato per attendere il suo arrivo. Ho preso da uno scaffale questo libro e una boccetta di inchiostro. Ho socchiuso la porta che dà nella sala per farmi luce e ho fatto passare 20 minuti scrivendo. Ma il mio compagno è impaziente e propone di impadronirci del mantello della lattaia e di andare a fare una corsa nella brughiera sotto quel riparo. Un'idea allettante. Poi, se quel vecchio bisbetico arriva, può credere che la sua profezia si sia avverata. Non possiamo essere più bagnati o più infreddoliti di quanto lo siamo già. Suppongo che Catherine abbia realizzato il suo progetto, perché la frase successiva trattava un altro argomento. Il tono era lacrimoso. Non avrei mai pensato che Hindley potesse farmi piangere tanto, aveva scritto. Mi fa male la testa da non poterla tenere sul cuscino. Eppure non riesco a smettere. Povero Heathcliff. Hindley lo chiama vagabondo e non gli permette più di stare in nostra compagnia né di sedersi a tavola con noi. Dice che io e lui non dobbiamo giocare insieme e minaccia di buttarlo fuori di casa se non obbediamo ai suoi ordini. Ha criticato nostro padre, come ha osato, per avere trattato Hindley con troppa generosità, e giura che lui saprà metterlo al posto suo. Cominciai a sonnecchiare sulla pagina sbiadita. Vagando con gli occhi dalle parole manoscritte a quelle stampate, vidi un titolo in rosso a caratteri ornati, 70 volte 7 e il primo della 71esima, un pio sermone pronunciato dal reverendo James Branderham nella cappella di Gimmerden. Ahimè, che cosa non possono fare il cattivo tè e il cattivo umore? Per quale altra causa avrei potuto passare una notte così terribile? Cominciai a sognare, quasi prima di perdere la coscienza del luogo in cui mi trovavo. Mi sembrava che fosse mattina e che mi fossi incamminato verso casa con Joseph come guida. La strada era coperta da metri di neve e mentre avanzavamo a fatica, il mio compagno mi assillava con continui rimproveri perché non avevo portato con me un bastone da pellegrino. Mi diceva che non sarei mai potuto entrare in casa se ne ero sprovvisto e intanto brandiva tutto spavaldo un randello dall'impugnatura pesante che evidentemente corrispondeva a quella descrizione. Per un momento ritenni assurdo l'aver bisogno di un'arma del genere per conquistare l'ingresso in casa mia. Poi una nuova idea mi folgorò. Non stavo andando a casa, ma ci eravamo messi in viaggio per andare a sentire la predica del famoso James Branderham sul tema 70 volte 7. E uno di noi, Joseph, oppure il predicatore o io stesso, aveva commesso il primo della 71esima volta e doveva essere pubblicamente denunciato e scomunicato. Giungemmo nella cappella. Nella realtà ci sono passato vicino 2 o 3 volte durante le mie passeggiate. Si trova in una conca fra 2 colline, situata a una certa altezza, vicino a una palude, il cui terreno torboso e umido si dice sia perfettamente adatto per imbalsamare i pochi cadaveri che vi sono sepolti. Nel mio sogno, James aveva una congregazione numerosa e attenta. E come predicava, buon Dio, che sermone, diviso in 490 parti, ognuna lunga come una normale predica dal pulpito, e ognuna trattava di un diverso peccato. Ero condannato a stare a sentire tutto quanto. Infine, arrivò al primo della 71esima. In quel momento critico fui colto da un'improvvisa ispirazione. Fui spinto ad alzarmi e denunciare James Branderham come colui che aveva commesso il peccato che nessun cristiano deve perdonare. «Signore!» esclamai. «Seduto qui fra queste quattro mura, senza alcuna interruzione, ho sopportato e perdonato i 490 capitoli del suo sermone. 77 volte ho preso il mio cappello e sono stato sul punto di andarmene. 77 volte lei mi ha dissennatamente costretto a rimettermi a sedere. La 491esima volta è troppo. Compagni di martirio, trascinatelo giù, riducetelo in atomi, affinché il luogo che lo ha conosciuto possa non conoscerlo mai più». «Tu sei l'uomo!» gridò James dopo una pausa solenne appoggiandosi sul suo cuscino. 77 volte il tuo viso si è distorto in sbadigli. 77 volte ho chiesto consiglio alla mia anima. Fratelli, eseguite su di lui il giudizio che è stato scritto!» A questa parola finale l'intera assemblea, alzando i bastoni da pellegrino, si precipitò intorno a me in massa e io, non potendo brandire alcuna arma per difendermi, cercai di strappare quella di Joseph, il più vicino e più feroce dei miei assalitori. Nel parapiglia generale parecchi bastoni si incrociarono, colpi diretti a me caddero sulla testa di altri. Ora la cappella risuonava di colpi e contraccolpi. Ogni uomo aveva la mano alzata contro il suo vicino e Branderham, non volendo restare in ozio, riversava il suo fervore in un sonante tambureggiare sulle assi del pulpito che riecheggiavano con tale vigore da riuscire infine, con mio grande sollievo, a svegliarmi. Cos'era stato a suggerirmi quel tremendo frastuono? Oh, semplicemente un ramo d'abete che toccava la finestra mentre le raffiche del vento passavano ululando e scuoteva le sue pigne secche contro i vetri. Ascoltai dubbioso per un momento. Scoprii il disturbatore. Poi mi girai e ripresi sonno, sognando di nuovo. Un sogno, se possibile, ancora più spiacevole del precedente. Questa volta ricordavo di trovarmi a letto nell'armadio di quercia e sentivo distintamente il vento di tempesta e la bufera di neve. Sentivo anche il ramo dell'abete ripetere il suo suono irritante e ne conoscevo l'esatta causa, ma mi dava un tale fastidio che decisi di farlo cessare. Mi parve quindi di alzarmi e cercare di aprire il battente della finestra, ma il gancio era saldato, una circostanza che avevo osservato da sveglio e poi dimenticato. «Eppure devo farlo smettere», brontolai, spaccando il vetro con le nocche e allungando il braccio per afferrare il ramo inopportuno. Ma le mie dita si strinsero invece sulle dita di una piccola mano gelida. L'intenso orrore dell'incubo si impadronì di me. Cercai di ritirare il braccio, ma la mano mi teneva stretto e una voce tristissima gemeva: «Lasciami entrare, lasciami entrare!» «Chi sei?» chiesi mentre combattevo per liberarmi. «Catherine Linton!» rispose tremante. Perché pensai a Linton? Avevo letto 20 Earnshaw per ogni Linton. «Sono tornata a casa, mi ero persa nella brughiera!» Mentre parlava, distinsi vagamente il viso di una bambina che mi guardava attraverso i vetri. Il terrore mi rese crudele e, scoprendo che era inutile cercare di scuotere via quella creatura, le tirai il polso sul vetro rotto, sfregandolo avanti e indietro, finché il sangue inzuppò le coperte del letto. Ma lei continuava a implorare: «Lasciami entrare!» e manteneva la sua presa tenace, facendomi diventare quasi pazzo dalla paura. «Come posso?» dissi alla fine. «Lascia andare me, se vuoi che ti lasci entrare!» Le dita allentarono la presa. Io ritirai le mie attraverso il buco. In fretta vi drizzai contro una piramide di libri e mi tappai le orecchie per non sentire quella preghiera straziante. Mi sembrò di averle tenute tappate per più di un quarto d'ora. Eppure, negli istanti in cui tornai ad ascoltare, il lamento doloroso risuonava sempre. «Vattene!» urlai. «Non ti lascerò mai entrare, neppure se implorarsi per 20 anni!» «Sono 20 anni!» si lamentò la voce. 20 anni che vago sola e senza casa!» A quel punto cominciò un debole raspare dall'esterno e la pila di libri si mosse come spinta in avanti. Cercai di bazzare via, ma non riuscii a muovermi e così gridai forte, con un terrore frenetico. Con mio grande imbarazzo scoprii che l'urlo non era stato immaginario. Passi frettolosi si avvicinarono alla porta della camera. Qualcuno l'aprì con mano vigorosa e una luce balenò attraverso le aperture sopra il letto. Mi misi a sedere, ancora tutto tremante, e mi asciugai il sudore dalla fronte. L'intruso sembrò esitare e borbottò qualcosa fra sé. Infine disse, quasi in un sussurro ed evidentemente senza aspettarsi una risposta: «C'è qualcuno qui?» Riconobbi la voce di Heathcliff e ritenni fosse meglio confessare la mia presenza, per timore che se me ne stavo zitto mi trovasse ugualmente. Con questa intenzione mi voltai e aprii i pannelli. Non dimenticherò tanto presto l'effetto prodotto dalla mia azione. Heathcliff era in piedi vicino alla porta, in camicia e pantaloni, con una candela che gli sgocciolava sulle dita e la faccia bianca come il muro alle sue spalle. Il primo scricchiolio del legno lo fece scattare come una scossa elettrica. La candela gli saltò via di mano e finì circa a 1 metro di distanza, e lui era in un tale stato di agitazione che quasi non riusciva a raccoglierla. «Sono solo il suo affittuario, signore!» esclamai. «Disgraziatamente mi sono messo a gridare nel sonno a causa di un incubo spaventoso. Mi dispiace di averla disturbata.» «Oh, che Dio la confonda, signor Lockwood! Vorrei che andasse!» esordì il mio ospite, mentre sistemava la candela su una sedia, essendosi accorto che non riusciva a tenerla ferma. «E chi l'ha fatta entrare in questa camera?» continuò, conficcandosi le unghie nei palmi e digrignando i denti per tenere a freno gli spasmi delle mascelle. «Chi è stato? Penso proprio che lo butterò fuori di casa immediatamente.» «È stata la sua domestica Zila», risposi, precipitandomi giù dal letto e rivestendomi alla svelta. «Non avrei nulla da ridire se la buttasse fuori, signor Heathcliff. Se lo merita ampiamente. Suppongo che volesse un'altra prova che questo posto è infestato dai fantasmi a spese mie. Beh, lo è, e pullula di spiriti e di folletti. Fa bene a tenerlo chiuso, glielo assicuro. Nessuno la ringrazierebbe per aver fatto un sonnellino in questa tana.» «Che intende dire?» domandò Heathcliff. «E che cosa sta facendo? Si rimette giù per il resto della notte, visto che ormai c'è. Ma per amor del cielo, non rifaccia quell'orribile rumore. Niente potrebbe giustificarlo, a meno che le stessero tagliando la gola. Se quel piccolo demone fosse entrato dalla finestra, probabilmente mi avrebbe strangolato», ribattei. «Non intendo sopportare oltre le persecuzioni dei suoi ospitali antenati. Il reverendo James Branderham era forse suo parente per parte di madre? E quella sfacciata di Catherine Linton, o Earnshaw, o come si chiamava, deve essere stata scambiata nella culla. Che piccola anima dannata! Mi ha detto di avere vagato sulla terra per questi ultimi 20 anni. Giusta punizione per i suoi peccati mortali, non ne dubito.» Non avevo ancora finito di pronunciare queste parole quando mi ricordai che nel libro il nome di Heathcliff era unito a quello di Catherine, cosa che mi era completamente uscita dalla memoria. Arrossì della mia avventatezza, ma fingendo di non rendermi conto del passo falso, mi affrettai ad aggiungere: «In verità, signore, è che ho passato la prima parte della notte», e qui mi fermai di nuovo, stavo per dire sfogliando quei vecchi volumi, il che avrebbe rivelato che ne conoscevo il contenuto manoscritto, oltre che quello stampato. Perciò mi corressi e proseguì, leggendo e rileggendo il nome inciso su questo davanzale. Un'attività monotona che avrebbe dovuto conciliarmi il sonno, come contare o dove vuole arrivare, parlandomi in questo modo. Tuonò Heathcliff con selvaggia veemenza. «Come? Come osa sotto il mio tetto? Dio mio, deve essere pazzo per parlarmi così!» E si colpì rabbiosamente la fronte. Non sapevo se offendermi per questo linguaggio o proseguire nelle mie spiegazioni, ma lui sembrava così profondamente turbato che ne ebbi pietà e andai avanti con i miei sogni. Sostenni di non avere mai sentito prima il nome di Catherine Linton, ma che a furia di leggerlo di continuo me ne era rimasta un'impressione che aveva preso una forma di persona, quando la mia immaginazione non era più sotto il mio controllo. Mentre parlavo, Heathcliff gradualmente si lasciò andare a sedere sul letto, finché vi si ritrovò quasi nascosto all'interno. Indovinavo però dal suo respiro rotto e irregolare che stava cercando di dominare un attacco di emozione violenta. Non mi piaceva fargli vedere che intuivo il suo conflitto interiore, perciò continuai piuttosto rumorosamente a fare toletta, guardai l'orologio e monologai su quella notte interminabile. «Non sono ancora le 3. Avrei giurato che erano le 6. Il tempo ristagna qui. Di sicuro siamo andati a dormire alle 8. Sembra alle 9 d'inverno e la sveglia sempre alle 4», disse il mio ospite con un lamento soffocato. E mi parve, dal movimento dell'ombra del suo braccio, che si asciugasse una lacrima dagli occhi. «Signor Lockwood», aggiunse, «può andare in camera mia. Se scende di sotto così presto, sarà solo d'impiccio. E per quanto mi riguarda, quel suo urlo infantile ha mandato al diavolo il sonno». «Lo stesso vale per me», replicai. «Passeggerò in cortile finché non fa giorno e poi me ne andrò. E lei non dovrà temere la mia invadenza per il futuro. Mi è passata del tutto l'idea di cercare il piacere della compagnia, in campagna come in città. A un uomo di buon senso deve bastare quello di se stesso». «Compagnia piacevolissima», borbottò Heathcliff. «Prenda la candela e vada dove vuole. Io la raggiungerò immediatamente. Ma stia lontano dal cortile. I cani sono slegati e nella sala Juno è di guardia. E beh, può girare solo per le scale e per i corridoi. Insomma, vada. Vengo fra un paio di minuti». Obbedì, almeno nel senso che uscì dalla stanza. Poi, non sapendo dove portavano quegli stretti vestiboli, mi fermai e fui involontario testimone di una scena di superstizione del mio padrone di casa che faceva uno strano contrasto con il suo apparente buon senso. Salì sul letto e spalancò la finestra e in quell'atto scoppiò in un pianto furioso e incontrollato. «Entra! Entra!» singhiozzò. «Entra, Cathy, ti prego! Oh, entra ancora una volta, vita mia, ascoltami almeno questa volta, Catherine!» Lo spettro si dimostrò capriccioso come si conviene a uno spettro e non diede alcun segno della sua presenza. Entrarono invece la neve e il vento che, turbinando selvaggiamente, arrivarono fino a me e mi spensero il lume. C'era una tale angoscia nello scoppio di dolore che accompagnava questo delirio che la compassione mi fece quasi dimenticare la follia della scena. Mi ritrassi con una certa rabbia per aver ascoltato e irritato per aver raccontato il mio ridicolo incubo che aveva prodotto una tale sofferenza, anche se il perché sfuggiva alla mia comprensione. Scesi cautamente al piano di sotto e atterrai nel retrocucina, dove, rastrellando insieme i pochi tizzoni che ancora ardevano nel camino, riaccesi la mia candela. Nulla si muoveva, tranne il gatto grigio tigrato che sgusciò fuori dalla cenere e mi salutò con un miagolio lamentoso. Due panche semicircolari racchiudevano quasi completamente il focolare. Io mi allungai su una di esse e il gatto salì sull'altra. C'eravamo entrambi appisolati quando qualcuno invase il nostro rifugio. Era Joseph, che ci abbattò giù da una scala di legno che spariva nel tetto attraverso una botola, via d'accesso alla sua soffitta, suppongo. Gettò una tetra occhiata alla fiammella che ero riuscito a ravvivare, spazzò via il gatto dalla panca e, sistemandosi al suo posto, diede inizio all'operazione di riempire di tabacco una pipetta. La mia presenza nel suo santuario veniva evidentemente ritenuta un'impudenza, troppo vergognosa per essere commentata. In silenzio si mise la pipa tra le labbra, incrociò le braccia, e prese a fumare. Lasciai che si godesse indisturbato questo piacere. Quando ebbe sbuffato fuori il suo ultimo cerchio di fumo, emise un sospiro profondo, si alzò e se ne andò con la stessa solennità con cui era arrivato. Poi entrò un passo più elastico e io aprì la bocca per un buongiorno, ma la richiusi senza pronunciare il saluto. Herton stava recitando sottovoce le sue preghiere, ovvero una serie di maledizioni dirette a ogni oggetto con cui veniva in contatto, mentre rovistava in un angolo cercando una vanga o una pala per aprirsi una strada fra i cumuli di neve. Lanciò uno sguardo sopra lo schienale della panca, dilatando le narici, e non gli passò neppure per la testa di scambiare parole di saluto con me, come se fossi uguale al mio compagno, il gatto. Dai suoi preparativi dedussi che ora si poteva uscire, e lasciando il mio duro giaciglio accennai a seguirlo. Lui se ne accorse e puntò verso una porta interna con l'estremità della vanga, facendomi capire con un suono inarticolato che se volevo cambiare postazione dovevo andare da quella parte. La porta si apriva nella sala, dove le donne erano già in attività. Zila stava spingendo le scintille di fuoco su per la cappa del camino con un soffietto colossale e la signora Heathcliff, inginocchiata davanti al focolare, leggeva un libro alla luce delle fiamme. Si proteggeva gli occhi dal calore con la mano e sembrava assorta nella sua occupazione, da cui si distraeva soltanto per rimproverare la domestica di averla ricoperta di scintille o per spingere via di tanto in tanto un cane che si prendeva la libertà di strofinare il naso troppo vicino alla sua faccia. Fui sorpreso di vedere lì anche Heathcliff. Era in piedi davanti al fuoco, con la schiena verso di me, e stava finendo una burrascosa scenata alla povera Zila, che interrompeva ogni tanto il suo lavoro per asciugarsi gli occhi con l'angolo del grembiule ed emetteva un singhiozzo indignato. Non restai a lungo. Rifiutai l'invito di fare colazione con loro e al primo bagliore dell'alba colsi l'occasione per fuggire all'aria aperta, che ora era limpida, calma e fredda come un ghiaccio impalpabile.